L'energia è un problema economico e di risorse perché dipendiamo dall'estero e dal petrolio, economico perché essere nelle mani degli altri fa lievitare i costi, per le imprese, per i cittadini, per l'intero paese. All'energia il nuovo presidente di Confindustria fa riferimento spesso, ma l'affondo arriva alla fine. È ora di tornare a investire nel nucleare. L'appello non cade nel vuoto, dopo pochi minuti il ministro Scajola raccoglie e fa sue le parole della Marcegaglia. Solo gli impianti nucleari consentono di produrre energia su larga scala, in modo sicuro, a costi competitivi, nel rispetto dell'ambiente. Entro questa legislatura porremmo la prima pietra per la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione. L'annuncio piace alle imprese. Enel fa sapere di essere già pronta, mentre Edison assicura di poter fare la propria parte. Non piace invece al ministro ombra per l'ambiente. Pensare di portare in 5 anni il nucleare in Italia, ha detto Realacci, è ideologico. Una battaglia come quella per l'articolo 18, che sappiamo come è andata a finire. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore.